Economia in pagina. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, bentornati a questa rubrica dedicata ai libri di economia. Oggi ci dedichiamo al caso Fiat, tra gli altri, e lo facciamo con Francesco Garello. Buongiorno, dottor Garello. Buongiorno, dottore. Dottor Garello è laureato in legge, è stato fino al 2007 direttore delle risorse umane di Fiat Group e quindi nel 2004, quando è arrivata la cosiddetta era Marchionne, era al suo posto ed è stato uno dei protagonisti un po' del cambiamento, del grande cambiamento che è avvenuto in questi quattro anni. Un cambiamento che è stato all'esterno con il risanamento della società e con il ritorno a cifre positive, con la crescita in borsa, ecco, negli ultimi tempi con qualche alterna vicenda, ma un risanamento che è partito ed è stato vissuto soprattutto all'interno. Ecco, come potrebbe definire, dottor Garello, questo cambiamento e peraltro che è stato appunto esplicato e spiegato in questo libro che si chiama Fiat People ed è edito da Lupetti. Dottor Garello. Beh, innanzitutto ci tengo a precisare che il protagonista, la ringrazio per il protagonista, ma il protagonista è stato Marchionne. Noi siamo stati dei suoi complici, quindi abbiamo cercato di rendere concrete le indicazioni e le linee guida che lui ha messo in campo. E come possiamo riassumerlo? Ma io lo riassumerei in un modo molto semplice. È stata la storia di uomini e di donne che hanno creduto nelle cose che potevano fare, anche giù in se stessi, a cui è stata data fiducia, è stata data responsabilità. Fiducia e responsabilità erano cose che francamente mancavano, quindi è stata presa la parte buona che c'era in Fiat, ed era molta, senza ricorrere a rendite di posizione, senza salvaguardare privilegi acquisiti, senza soffermarsi sui titoli, sul fatto di essere dirigenti, direttori o cose di questo genere. Quindi sono state prese le persone migliori, più meritevoli, gli è stata affidata una responsabilità, un incarico, degli obiettivi e la fiducia piena con delega significativa. Quindi una centralità alla persona piuttosto che all'organizzazione, agli schemi organizzativi, quindi anche un ribaltamento degli schemi organizzativi tradizionali, un superamento delle logiche un po' burocratiche. In fondo la Fiat è la più grande azienda italiana, qualcuno la paragonava a un ministero, ma in maniera negativa, del fatto di essere ministeriali, cioè di dover seguire delle procedure rigide, di dover compilare dei moduli e avere delle autorizzazioni per fare qualunque cosa, un'azienda in fondo in cui mancava il culto della responsabilità, è così, dottor Garello? Sì, assolutamente, le procedure hanno un grande limite che impediscono la velocità nelle decisioni, si aspettano di solito i comitati, nessuno decide, si rispettano le regole, ci si scrive uno con l'altro, le cose si dice che le si sono dette, ti avevo segnalato che, nella misura in cui, ma alla fine le decisioni non si prendono, nessuno si assume la responsabilità della decisione e si rimanda tutto all'altro, perché c'è la procedura che stabilisce tanti passaggi. Questo in Fiat non era più utile, non c'era più tempo per stare dietro alle procedure, quindi è stata completamente ribaltata questa burocrazia, eliminata totalmente, rischiando anche di prendere, come dire, delle decisioni non perfette dal punto di vista metodologico, ma sicuramente efficaci. Due cose fondamentali: la velocità decisionale, quindi rapidità decisionale, e semplicità nelle cose che si facevano. Ecco, ci sono tre punti che lei mette in rilievo nella presentazione: la cultura prima dell'organizzazione, le persone prima delle procedure, la leadership al posto del potere, del ruolo. Ecco, tre preposizioni, tre principi certamente importanti, che però sembrerebbero richiedere, per essere messi in pratica, dei tempi lunghi. Che cosa ha consentito di fare in Fiat un turnaround così veloce, in fondo pochi mesi prima di vedere i primi risultati di questa operazione? Ma guardi, cultura di solito si mette prima la strategia, si stabilisce quello che si vuole fare, poi ci si organizza e poi si sceglie la cultura adeguata. Qui in questo caso abbiamo fatto il contrario, rompendo proprio gli schemi. Prima la cultura, cioè come dobbiamo essere, no? Che caratteristiche dobbiamo avere per rispondere tempestivamente alla competizione nel mercato. Due, le persone al centro, quindi senza le persone che fanno veramente la differenza, quindi senza le persone che agiscono, che operano, che prendono decisioni, non si fa nulla, quindi via burocrazia. Terza cosa, la leadership, che è fondamentale. Terza, ma non ultima, anzi è la prima, che è quella che connota tutta la cultura dell'azienda. La leadership vuol dire sapere vivere in un gestire un cambiamento, quindi essere fortissimi, decisi, modificare lo status quo delle cose, reagire rapidamente alle condizioni esterne che mutano, dal mercato al prodotto, alla competizione, e poi gestire le persone, tutta la parte di quella che noi chiamavamo di leading people, cioè la capacità di aiutare le persone a superare i propri limiti, a sfidare le abitudini consolidate, a mettersi in discussione, a premiare i migliori, quindi affermare un forte concetto di meritocrazia, quindi premiare i migliori a prescindere dall'età, dal grado, no? Metterli in condizione di operare e premiarli per le cose buone che fanno. Queste sono cose, sono degli ingredienti che in realtà, se messi insieme tutti in modo corretto, consentono rapidamente di raggiungere i risultati, perché si sprigionano delle energie assolutamente inimmaginabili, assolutamente inimmaginabili. Non aspettare che le persone siano pronte per ricoprire incarichi superiori, se non lo provi e non ti prendi qualche rischio non saprai mai se lo sono, quindi prendersi anche dei rischi, questo è stato fatto e i tempi sono stati rapidissimi. Quindi passare dalla cultura della gerarchia, dei posti rigidi, dell'anzianità, degli scatti di anzianità e dell'avanzamento di carriera, soprattutto appunto per aver maturato certe esperienze, alla cultura invece della leadership, che è molto più flessibile, molto più che si adatta al cambiamento dei tempi, appunto non deve essere stato facile, però è stato forse il punto di fondo, di far vedere che ogni persona poteva essere responsabile non solo del suo settore, ma del successo di tutta l'area aziendale in cui lavorava e in fondo di tutta l'azienda. Quindi anche un forte recupero di quello che può essere l'orgoglio aziendale, una parola che forse era passata di moda. Dottor Garello. Era passata di moda, l'orgoglio c'era, ma era molto lì sepolto sotto la cenere, come dire, un focherello sotto la cenere. L'orgoglio e la passione c'erano, ma erano veramente umiliati, quindi lo si è recuperato e questo è stato decisivo. È chiaro che se metti queste cose insieme al fatto di non guardare in faccia le rendite di posizione, ma che io su questo insisto un po', chiedo scusa, ma è veramente fondamentale. E mettere le persone migliori e più meritevoli nelle condizioni di realizzare, di far accadere delle cose, guardi, questo è veramente stravolgente, veramente stravolgente. Costringere la gente, le persone a partire dall'alto, in questo Marchione è stato decisivo a metterci la faccia, ad esporsi. A essere coerenti tra le cose che si dicono, si promettono e le cose che si fanno. Ed essere quindi forse il primo anche a contestare certe formule, forse potremmo chiamare questo titolo la cravatta mancata di Marchionne. Sì, devo dire che è una forzatura, come dire, simbolica, no? Cioè, dal punto di vista della simbologia è molto forte, ma è una forzatura che rafforza il concetto della concretezza, dell'efficacia, della sostanza, del quello che si dice il delivery, cioè la capacità realizzativa, attuativa, insomma, ecco, andiamo al nocciolo della questione. Pochi fronzoli, poca burocrazia, pochi sprechi, poche cose inutili, non che la cravatta lo sia, ma nella simbologia della perfezione. Ricominciamo e ripartiamo dalle cose semplici che sappiamo fare e che noi stessi esprimiamo. Facciamo bene le automobili, facciamo le cose che sappiamo fare, gestiamo bene i clienti, spostiamo l'azienda verso il cliente, cosa che non c'era, quindi lei capisce che per far questo non devi guardare in faccia a nessuno, lo dico in modo positivo, cioè non devi guardare in faccia a quelli che avanzano o pretendono dei titoli in funzione di tutto quello che hanno sempre fatto, che è importante, ma se non sei più, lo dico con un po' di apparente cinismo, ma bisogna un po' reagire così, se non sei in condizione di farlo e non consenti all'azienda di orientarsi in modo diverso, bisogna mettere le persone capaci di farlo al posto giusto. Certo, un'ultima domanda, siamo in conclusione, ovviamente questo cambiamento è stato favorito, spinto e reso possibile, oltre che necessario, da una situazione, diciamo così, di emergenza. In tempi normali che cosa può spingere a mantenere vivo questo spirito di cambiamento, dottor Garello? Ma in tempi normali, certo, nell'emergenza di solito si dà il meglio di sé, però è anche vero che molto spesso nell'emergenza, e questo era successo, che comunque l'azienda era in emergenza da molti anni, quindi non sempre anche in emergenza trovi le soluzioni. In tempi normali devi evitare di ingrassare, devi evitare di sederti sulle abitudini consolidate, di sederti sul vabbè però ho ancora un po' di margine, quindi posso ancora permettermi di sprecare qualche cosa nei processi interni, nella gestione delle persone, devi evitare di stancarti di parlare con la gente, quindi devi fare esattamente queste cose che fai in emergenza. Certo. Una continua attenzione. Si dimentica di queste cose quando si sta bene. Certo, una continua attenzione alle persone consente anche di prevenire certi problemi e sarebbe molto più facile prevenire che non poi risolvere risolvere certe situazioni. Io ringrazio il dottor Francesco Garello, che è stato fino al 2007 direttore delle risorse umane di Fiat Group e che con Roberto Provana ha scritto il libro Fiat People, la People Strategy come motore per il cambiamento, un racconto della vicenda della Fiat negli ultimi anni, soprattutto dal punto di vista della realizzazione all'interno di un nuovo clima, di nuove procedure, di nuovi processi aziendali, con quella cultura del cambiamento, quella cultura moderna, cultura aperta, che poi ha reso possibile anche i risultati economici. Il libro Fiat People è edito da Lupetti, a 160 pagine, costa 15 euro ed è in fondo un manuale di estrema attualità anche per capire dove sta andando l'industria e l'economia italiana. Grazie a dottor Garello, grazie a quanti ci hanno ascoltato. Economia in pagina. Buongiorno, bentrovati e ben ritrovati anzi a questa rubrica dedicata ai libri di economia. Abbiamo parlato nella prima parte del libro Fiat People, un libro che illustra il tema del cambiamento, del grande cambiamento che è avvenuto nella Fiat negli ultimi anni e che ha portato la situazione da una particolare difficoltà, quasi un fallimento, a un rilancio molto forte dell'azienda sulla base di parametri appunto di cambiamento, di valorizzazione della persona, di ritrovamento dei valori di fondo, dell'orgoglio in fondo di appartenere a una grande azienda. Parliamo adesso con Antonio Quaglio. Buongiorno Quaglio. Buongiorno. Antonio Quaglio è caporedattore del Sole 24 Ore e ha curato un libro, Banche Controcorrente, la sfida del credito cooperativo nell'Italia che cambia. Abbiamo parlato di un'azienda industriale, ora parliamo di banche, però in fondo la logica con cui si parla di banche è quasi la stessa che sta alla base del grande cambiamento della Fiat. Abbiamo visto come la persona sia tornata al centro, come sia tornato al centro l'orgoglio di appartenere a un'azienda, i legami con il territorio, tutte cose che appartengono alla tradizione del mondo cooperativo e non da poco. La Fiat ha realizzato questo cambiamento negli ultimi 3 anni, le banche cooperative forse hanno mantenuto questi valori fin dal loro inizio. Quaglio. Certo, un inizio che anzitutto curiosamente coincide temporalmente con le radici della Fiat. La prima banca di credito cooperativo italiana, quella di Loeggia nel Trevigiano, nasce appena qualche anno prima della nascita della Fiat, quindi il parallelo mi sembra assolutamente corretto. È un mondo che, come la Fiat, ha attraversato guerre e paci e ha intessuto varie fasi di crisi, ma soprattutto di espansione dell'azienda Italia. Ecco, quindi un mondo, quello delle banche cooperative, che è fortemente collegato allo sviluppo economico italiano. Abbiamo detto che è una tradizione ormai secolare, ma uno sviluppo che riprende un modello che non è solo italiano. Le banche cooperative sono nate in Germania. È un modello europeo. Europeo. Sono nate in Germania con la logica di far crescere appunto delle realtà del credito all'interno di singoli territori, una logica solidaristica. Mutualistica, dicono loro. Infatti una logica che appunto lega poi queste banche fortemente al territorio, una logica che non è cambiata nel momento in cui si è passati dalla finanza locale alla finanza un po' tumultuosa, sovranazionale e globale. Non a caso le banche di credito cooperativo sono orgogliose di fare, dicono loro, una finanza globale, che può sembrare un gioco di parole un pochettino abusato, ma loro cercano di non abusarne. Diciamo che, come tu ricordavi, la nascita nel cuore del continente europeo in Germania a metà 800 delle prime Raiffeisenkassen. Raiffeisen è stato il grande pioniere del credito cooperativo in tutto il mondo, possiamo dire, coincide con un passaggio per lo stesso credito mutualistico e cooperativo, cioè da una semplice solidarietà nei confronti della povertà e dell'usura a qualcosa di diverso, come tu sottolineavi. Artigiani, piccoli imprenditori e oggi anche uomini d'affari di ogni genere, professionisti, famiglie risparmiatrici, in maniera orizzontale, scrive Aldo Bonomi nel pezzo, in uno dei contributi al libro. L'orizzontalità, ecco, è la dimensione del credito cooperativo. Tutte queste persone, tutti questi soggetti della società e dell'economia promuovono, provano a far credito da se stessi, per se stessi, ma con le regole del mercato. Ecco, banche che comunque sono piccole banche legate a piccoli territori, che però sono riuscite attraverso la loro integrazione, un'integrazione più funzionale che non societaria, a dare ai loro clienti, che poi sono i loro soci, a dare dei servizi pari a quelli di una grande banca. Certo, oggi il credito cooperativo da una decina d'anni è un marchio, lo sottolineavi appunto ora, c'è un marchio unico per le 440 ex casse rurali artigiane, oggi BCC, banche di credito cooperativo. Il credito cooperativo oggi è il 10% del sistema bancario italiano, ha 3.900 sportelli ed è quindi una realtà perfettamente paragonabile alle altre grandi realtà, anzitutto Unicredit e Intesa San Paolo, ma in Italia in maniera particolare, a differenza forse di altre realtà, la olandese, la francese in particolare, ha sempre voluto, anche nell'ultima fase di grande sviluppo, mantenere il principio dell'autonomia della singola banca di credito cooperativo nel suo territorio. Quindi un modello di banca, dice appunto Bonomi nella sua introduzione, nel suo studio, a geometria variabile, una banca diversa fatta da banche diverse, cioè una banca che è diversa dalle grandi banche, e ovviamente non parliamo male delle grandi banche, hanno una loro funzione, una loro identità, hanno un compito molto forte per mantenere il sistema del credito forte come è in Italia, però queste si integrano completamente nel sistema del credito con una loro funzionalità e anche con una capacità di crescita, pur restando legati al territorio. Certo, anzitutto non dimentichiamo, parlavi di differenze, differenti per forza è l'airline di una loro campagna di marketing degli ultimi anni. La differenza è sancita anche dalla legge bancaria comunitaria, dalla seconda direttiva UE, che è il nostro testo unico bancario. Le banche Unicredit, Intesa, Deutsche Bank, il Banco Popolare, la Popolare di Milano, il Santander, sono imprese bancarie e in Europa è possibile fare attività bancaria solo con un'impresa organizzata con società di capitali tipicamente quotata, salvo, dice la seconda direttiva UE, salvo se si fa credito cooperativo e intende il credito cooperativo delle banche di credito cooperativo italiane che sono no profit, quindi anche le più grandi banche di credito cooperativo, principalmente le lombarde, le venete, le emiliane, che hanno utili annuali considerevoli che sono l'indice della loro salute, però non distribuiscono ai loro soci questo utile che viene incamerato a patrimonio e in questi giorni di patrimonio delle banche si sta parlando veramente molto e che vengono statutariamente distribuiti ogni anno in parte in attività di pubblica utilità sui territori. Certo, e forse vale la pena di leggere una piccola frase dell'intervista che hai fatto ad Alessandro Azzi, presidente di Federcasse, e dice che le banche di credito cooperativo sono un sistema bancario che si sforza di reggere il passo della concorrenza, anche perché questo sistema comunica da sempre con alcune dinamiche profonde della società italiana: la voglia di riscatto e di promozione, di avere successo con e nel proprio lavoro, la voglia di partecipazione a uno sviluppo collettivo, di costruire una società il più possibile aperta, la voglia, necessità di identificarsi con dei territori pur lavorando nei grandi flussi globali. Ecco, Alessandro Azzi è da poco presidente di questa realtà e ha portato, è un quarantenne, ha portato uno spirito giovanile, uno spirito quasi di riscossa in queste banche. Certamente, e sotto le sue presidenze, pur mantenendo vivo il movimento, come lui ama sempre sottolineare, l'autonomia e la presenza sociale delle banche di credito cooperativo, che sono cooperative creditizie vicino a altre cooperative, tra l'altro, però ha cercato di sviluppare in maniera accelerata, anche se senza strappi, una logica di gruppo. Icrea Holding, che è il baricentro del credito cooperativo e che ha tra i suoi azionisti tutte le 440 BCC italiane, ha gradatamente accorpato sotto di sé una serie di società di servizio e di prodotto, quindi servizi informatici anzitutto e di prodotto, pensiamo al risparmio gestito, alle assicurazioni, in maniera tale che il credito cooperativo, che è questo marchio verde blu, e il brand del melograno, che è il brand nazionale del sistema del credito cooperativo, rispettando l'autonomia delle singole BCC, si presenti però sul mercato con un'offerta di alta qualità e integrata veramente per le banche di credito cooperativo dall'Alto Adige alla Sicilia. Ecco, usciamo un attimo dal libro e mi rivolgo ad Antonio Quaglio, esperto di banche, esperto di politica bancaria. In Francia una banca di credito cooperativo, il Crédit Agricole, è diventata una grande banca, ha assorbito anche il Crédit Lyonnais e quindi è un po' uscita dalla tradizione. E infatti ha perso molti soldi con i subprime. Quindi in Italia Questo non è successo, no. Ma l'evoluzione futura del sistema delle banche di credito cooperativo, che tu abbiamo visto nelle tue parole, nello scrivere questo libro, guardi certamente con simpatia, l'evoluzione futura resterà un'evoluzione orizzontale, non avranno tentazioni verticali? Finora e sicuramente sotto la presidenza di Alessandro Razzi, questo è sempre stato un confine invalicabile e direi pur cosa. Appunto, abbiamo visto il principale sistema del credito cooperativo francese, il Crédit Agricole, reggere ai colpi della crisi, perché il Crédit Agricole non è fallito, ricapitalizzarsi con le forze delle casse regionali del credito agricolo, ma accusare questa prima esposizione molto forte nel mondo della finanza tout court, della finanza globale. Il sistema del credito cooperativo italiano non ha fatto questa scelta e per il momento non intende farla, intende per ora rafforzarsi per linee interne, intende fare una finanza reale, cioè continuare ad offrire a imprese e famiglie servizi il più possibile efficaci ed efficienti. Grazie Antonio Quaglio, abbiamo grazie parlato in questa trasmissione prima della Fiat, una grande azienda, poi di tante piccole banche che comunque fanno un grande sistema bancario come quello del credito cooperativo. Lo spunto era il libro curato appunto da Antonio Quaglio, Banche Controcorrente, edito dal Sole 24 Ore, a un prezzo di 24 euro, sono poco più di 100 pagine, è un libro in cui ci sono molti contributi, tra cui anche un'intervista dello stesso Quaglio al presidente Antonio Razzi. Grazie a quanti ci hanno seguito, l'appuntamento è per la prossima settimana.